L'Italia rispetto a molti altri paesi, ricordo che si tratta dei paesi che compongono il Consiglio d'Europa, di cui dunque fanno parte sì tutti i paesi dell'Unione Europea, ma anche altri paesi che non fanno parte dell'Unione Europea. L'Italia ha un numero molto alto di detenuti condannati per violazione del testo unico sulle droghe, oggi sono circa il 34%, quindi oltre un terzo, circa un terzo della popolazione detenuta. Bisogna considerare che si tratta di una cifra in diminuzione, una percentuale di una cifra in termini assoluti e di una percentuale in netta diminuzione rispetto a pochi anni fa, cioè alla pronuncia della Corte Costituzionale sulla Fini Giovanardi, che ha dichiarato incostituzionale parte della Fini Giovanardi, perché nel momento in cui la Fini Giovanardi ha equiparato sostanzialmente droghe leggere e droghe pesanti, il numero di detenuti per violazione del testo unico sulle droghe è aumentato di moltissimo e si era arrivati intorno al 40-41%, di preciso credo fosse il 41,58%. Quindi resta un numero molto alto, è un numero molto alto che peraltro riguarda in buona parte dei soggetti più vulnerabili, quindi non tanto, comunque non in gran parte gli esponenti della criminalità organizzata che organizzano il narcotraffico, quanto i piccoli spacciatori, perché la maggior parte dei detenuti per violazione del testo unico sulle droghe lo sono per violazione dell'articolo 73 che punisce la detenzione ai fini di spaccio. Sono circa 14.000 su circa 18.000 detenuti. Altri 5.000, oltre a violazione dell'articolo 73, hanno anche la violazione dell'articolo 74, che è quello che punisce l'associazione finalizzata al traffico illecito. Quelli che hanno solo l'associazione sono molto pochi, meno di 1.000, e quindi questo poi si rispecchia nella composizione della popolazione detenuta, per cui i pesci grandi non vengono colpiti più di tanto da questa legislazione, i pesci piccoli, che sono poi i soggetti più vulnerabili e in gran parte stranieri, che sono poco meno del 15% dei detenuti per violazione dell'articolo 74, quindi quello che punisce l'associazione, e sono invece oltre un terzo dei detenuti per violazione dell'articolo 73, cioè che punisce la detenzione ai fini di spaccio. E invece, diciamo, facendo un'analisi proprio di questo dato, che appunto, lo ricordavi prima, molto diverso da quello della media dei paesi che fanno parte del Consiglio Europeo, che è quasi della metà, del 16% circa, ti chiederei anche quanto influisce la legislazione italiana in questo senso. Tu citavi prima gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale in merito alla Fini Giovanardi, quindi quanto influisce le normative italiane in questo momento e quanto potrebbe influire se effettivamente Salvini riuscisse a far passare il disegno di legge che ha proposto, e anche quanto influisce magari il dibattito in questo momento? Influisce molto, influisce moltissimo la normativa, perché assieme alle prassi è quella che dà le prassi, la cultura giuridica è quella che determina gli ingressi in carcere o meno in generale rispetto allo specifico della normativa sulle droghe. È chiaro che questo lo mostra anche il passaggio dal 42%, 41,5% dei detenuti per questo reato al 34%, che è un calo comunque molto sensibile subito dopo la pronuncia della Corte Costituzionale. Quindi questo mostra come la normativa abbia effetti giganti e criminogeni in questo caso, perché è un trattamento non solo sterile ma dannoso nei confronti della società. Si sceglie un approccio che non è guidato dal diritto alla salute, ma che è puramente repressivo e che non porta da nessuna parte. Quanto invece al dibattito politico legislativo attuale, è chiaro che noi ci siamo opposti e continueremo a opporci in tutte le sedi possibili e immaginabili al disegno di legge a cui tu facevi riferimento e di cui parla Salvini, che vuole abolire la lieve entità. Abolendo la lieve entità aumenterebbe di molto il numero di detenuti per violazione della normativa sulle droghe. Noi al contrario proponiamo la legalizzazione della marijuana, che anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto all'ONU di togliere dalla lista delle sostanze pericolose, e la depenalizzazione delle altre sostanze. Perché non ha senso, a nostro avviso, questo tipo di politica, perché bisogna puntare sulla cultura della riduzione del danno, su una maggiore diffusione delle conoscenze e su un trattamento sanitario, laddove il trattamento sanitario è necessario, non certo su un trattamento penitenziario della questione. Dopodiché influisce, se la tua domanda è quanto influisce il dibattito politico sull'andamento della popolazione penitenziaria, influisce molto, perché da un lato c'è la normativa e dall'altro ci sono le prassi. casi, c'è la discrezionalità dei giudici, c'è la discrezionalità delle procure che puniscono in maniera più o meno aspra e perseguono in maniera più o meno intensa alcune fattispecie di reato. Laddove, allora quando c'è un clima più punitivo, questo si riflette su tutta la filiera. Perché i giudici, perché tutti gli operatori sono persone che fanno parte della loro società, che hanno giudizi e pregiudizi condivisi con il resto della società, non vivono in un iperuranio staccato da questo, e quindi quando la società in generale si incattivisce, capita spesso, direi persino sempre, che anche il sistema giudiziario si incattivisca.